È fuori discussione che nessuno abbia mai parlato come Gesù. Ancora oggi non è possibile esprimere un giusto, profondo concetto morale che non abbia un riferimento a qualcosa che Gesù ha detto. Come non è possibile stabilire una giusta legge senza attingere a quelle da lui dettate nella Bibbia. Così è del suo comportamento. Nessun contemporaneo è riuscito a trovare in lui la minima colpa. Tanto è vero che è stato crocifisso solo perché sosteneva di essere Dio. Giovanni 5.18, 19.7. Quando si è unici, si è tentati di dire agli altri imitatemi, fate come me, imparate da me, e, se non è per orgoglio, è per incoraggiare gli altri a fare ciò che è giusto. Anche in questo Gesù è stato unico. Non sono tante le volte nelle quali abbia detto ai suoi discepoli di imitarlo, per cui, nell'imbattersi in uno di questi inviti o ordini, subito nasce la curiosità di capire quale circostanza lo abbia portato a esprimerlo. Nel Vangelo di Matteo troviamo un ben noto invito a imitarlo, anche se spesse volte ho trovato persone imbarazzate nel dover spiegare il concreto significato delle parole di Gesù. L'invito è questo: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Matteo 11.2, 8.30. In questo appello possiamo notare come prima cosa che Gesù non chiama a sé tutti gli uomini, ma coloro che sono travagliati o affaticati e coloro che sono aggravati, stanchi o oppressi, secondo come ha reso il traduttore. Non che le altre persone non abbiamo bisogno di andare a Cristo, ma per esperienza possiamo dire che in genere si cerca quello di cui si ha bisogno. È assurdo offrire un bicchiere di acqua a chi tutto il giorno imbottiglia acqua minerale, come è assurdo offrire un pezzo di pane a un fornaio. Ma se una persona si trova da parecchio tempo nel deserto, senza pane e senza acqua, non esiterà a prendere anche del pane duro e dell'acqua non tanto buona. Questa è una delle ragioni del perché le parole di Gesù spesso vengono colte da persone che hanno dei problemi e pesi, sia esistenziali, sia spirituali, povere o ricche che siano. Il bisogno di Gesù si sente in modo particolare quando ci si rende conto che la vita non soddisfa quel vuoto abissale esistente nel nostro profondo, e l'invito di andare a Cristo diventa l'unico bisogno e soluzione al nostro eterno problema. Dopo essere andato a Cristo, dunque, l'uomo ha bisogno di compiere almeno due cose: prendere o accettare le difficoltà che Dio prepara nella vita, le quali nelle parole di Gesù sono simboleggiate dal giogo, cioè quell'attrezzo di legno sagomato applicato al collo della coppia di bovini per sottoporli al lavoro, e poi imparare da Gesù. Già il giogo in sé ci dice che il credente non è libero di lavorare come vuole, ma è costretto ad andare con l'altro che gli è di fianco, ossia Gesù stesso. Infatti Gesù non ha parlato di un giogo qualsiasi, ma del suo giogo, perciò il credente è stato elevato al ruolo di essere compagno e partecipe del lavoro di Cristo. E per non scoraggiare nessuno, Gesù ha specificato che il suo giogo, cioè il lavoro, non è pesante, ma dolce e leggero. È vero che, a volte, al credente sembra di non farcela, ma poiché il giogo si porta in due, chi confida in Cristo, Gesù spesso avverte che il carro della vita prosegue senza che egli vi si affanni. Non solo. Nonostante la terribile durezza del terreno da dissodare, chi ha il timore di Dio, alla fine, si rende piacevolmente conto di non essersi affaticato. Anzi, con il timore di Dio il credente è vissuto nel riposo e si trova riposato. Ha vissuto nel riposo perché, avendo posto fede in Cristo, ha risolto una volta per tutte il problema di fondo, cioè il peccato. Si trova riposato perché non ha usato energie proprie per esprimere la fede, ma ha lasciato il compito allo Spirito Santo di realizzare l'opera sua in lui. Però, mentre il primo riposo si trova mediante un atto di fede, il secondo riposo si ha solo se si impara da Gesù. E qui occorre vedere cosa si debba imparare. Grazie a Dio non sono molte le cose che il credente deve imparare per attuare una vita rilassata. Esattamente sono due: essere mansueti e umili di cuore. Per molte persone la mansuetudine è solo una parola fra le tante, ma per un contadino essa è indispensabile. Per poter arare un campo occorrono animali mansueti, non tanto intelligenti o forti. Un toro non accetterebbe un giogo come un cane non sceglierebbe di trainare un carro. Ma cosse, è esattamente la mansuetudine? Il dizionario, come sinonimi, dà docilità o mitezza. Ma essi non spiegano esattamente in che cosa consiste la mansuetudine. Indicano che un mansueto è un uomo docile o mite, ma siamo ancora lontani da sapere esattamente cosa sia la mansuetudine. Molto probabilmente la spiegazione di cosa sia tale atteggiamento è andare dove vuole il padrone. In effetti, se il bue è mite o docile è perché non si ribella agli ordini del padrone, ma con mansuetudine segue la volontà di chi lo guida. Questo aspetto applicato alla vita del credente è molto significativo. Tutti noi abbiamo idee, visioni, progetti o, come si dice, dei sogni nei cassetti. Abbiamo progetti da realizzare e altri da evitare, e la mansuetudine sta proprio nell'accettazione di poter realizzare o non realizzare ciò che Dio vuole. E mancanza di mansuetudine quando certi progetti li otteniamo a tutti i costi, quando si compra una casa al di là delle nostre possibilità economiche, quando si realizza un sogno chiamato amore e non è lecito, quando si ottengono posizioni sociali o nell'ambito di una comunità che non sono di nostra competenza, quando si realizza una stima senza avere i requisiti adatti, oppure quando a tutti i costi si evitano certe sofferenze, quando si evitano certe responsabilità, quando non si vuole stare in una situazione di umiliazione o sconfitta per evitare l'abbandono degli uomini. È molto difficile comprendere quando veramente si è sottomessi a Cristo. In cielo si scopriranno persone che hanno fatto grandi cose senza la dovuta sottomissione a Dio, mentre altre per mancanza di sottomissione non hanno rinunciato alla loro vita. Matteo 10.39. Se Gesù ha detto di imparare da lui la sottomissione, significa che i credenti devono investigarne il comportamento, e tra le tante occasioni in particolare, quello sulla croce, dove lo vediamo senza un'ombra di ribellione, piuttosto, pieno di amore per coloro che non erano coscienti di quello che facevano. Solo Dio conosce a fondo le consapevolezza delle persone nel fare il male. A noi sta di avere quello spirito di sottomissione che accetta la volontà di Dio espressa nelle circostanze della vita. Se crediamo che le circostanze della vita siano guidate da Dio, allora sottometterci alle circostanze equivale a sottometterci a Dio, e questo per non avere e per non cadere nella fede in un Dio astratto, concettuale come hanno i musulmani e i testimoni di Geova. La sottomissione a Dio ha a che fare con la vita pratica, diversamente non è più sottomissione. Così arrabbiarsi perché le cose non vanno secondo il nostro punto di vista è la più grande evidenza della nostra ribellione a Dio. Se piove abbiamo bisogno del sole, se abbiamo preparato un viaggio e non possiamo farlo, se abbiamo confidato sulla nostra salute e improvvisamente ci ammaliamo, ogni gesto di irritazione o risentimento è una grave offesa all'ordine di essere mansueti. Oltre a imparare da Gesù la mansuetudine, occorre anche imparare l'umiltà per avere la pace, perché la sola mansuetudine non è sufficiente per non essere turbati. L'umiltà, questa grande virtù, così tanto predicata, cercata, ma che sembra sfuggire proprio a chi la cerca. Forse perché non sappiamo esattamente in che cosa consiste. Il nostro esasperato desiderio di possedere umiltà non viene soddisfatto. Per prima cosa la persona umile non è chi espone ai 4:20 le proprie incapacità. Dire io non valgo niente, non sono capace di fare nulla, non è umiltà, ma solamente un atto di orgoglio che cerca con un falso abito di farsi vedere umile e come un lupo che si traveste da pecora. Umiltà non è neppure dichiarare continuamente di essere orgogliosi, perché non si tratta che di un altro modo per esprimere la propria presunzione, ma utilizzando una frase negativa. Come vi è il complesso di inferiorità, così vi è pure il complesso di superiorità. Stessa cosa per l'orgoglio. Si è orgogliosi dicendo di essere migliore degli altri, come si è ugualmente orgogliosi, asserendo continuamente si esserlo. Bisogna precisare una cosa. La nostra natura umana è irrimediabilmente malvagia e orgogliosa. Perciò, se nascono involontariamente in noi desideri, dettati dall'orgoglio, non è un peccato. Il peccato, occorre sempre ripeterlo, meno è compiere un atto contrario al volere di Dio e non provare sentimenti corrotti, per cui non sono orgoglioso solo perché, dopo aver fatto o detto qualcosa di particolare, nasce in me un sentimento di autosufficienza. Ma se appoggio o approvo tale sentimento, il fatto che provi sentimenti di orgoglio non fa altro che dimostrare la mia natura corrotta. L'umiltà è proprio quella capacità di vedere le proprie virtù e i propri limiti, essere pienamente convinti che le virtù sono sempre, bisogna mettere l'enfasi su sempre, il prodotto dell'opera di Dio in noi, mentre i limiti o le mancanze sono sempre il prodotto della nostra natura malvagia. Gesù sapeva di non peccare mai, ma ha sempre attribuito questo all'opera di Dio, nel dichiarare: le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Giovanni 14.10 dava un esempio di grande umiltà. Riconosceva di compiere cose straordinarie, ma le attribuiva tutte a suo Padre. La persona umile parla e si comporta in modo tale che la lode e la gloria vanno sempre a Dio tramite Cristo. Gesù disse di imparare da lui la mansuetudine e l'umiltà, e poiché sono solo due virtù, vale la pena di cercarle con tutto il cuore, dato che potremmo cercare virtù non opportune, 1 Corinzi 14.17, mentre queste rientrano certamente nella volontà di Cristo e di Dio. Chi ha orecchi per udire, oda. Aprile 2010, Ellero.